Il tema della qualità della vita si potrebbe tradurre nel linguaggio della Chiesa Cattolica di questi anni con l'impegno per la vera dignità dell'uomo, per una vita autenticamente umana, a tutti i livelli e in tutte le situazioni, arricchita da relazioni dense e creative. Avrei anche aggiunto, ma non osavo farlo, avrei aggiunto l'aggettivo spirituale, anche a livello spirituale, ma appunto sono stato preceduto da una citazione di chi ha parlato prima di me a nome della regione Rhône-Alpes, se ho capito bene, che ha dato la citazione a me molto cara: il XXI secolo sarà spirituale o non sarà, e lo ringrazio per questa citazione. Nell'ultima lettera enciclica del 1 maggio scorso, dal titolo Centesimus Annus, Papa Giovanni Paolo II ricordava l'impegno della Chiesa negli ultimi 100 anni per questa difesa della dignità dell'uomo, della qualità della vita, e diceva: a tale impegno nei 100 anni trascorsi la Chiesa è rimasta fedele. Infatti è intervenuta nel periodo turbolento della lotta di classe, dopo la Prima Guerra Mondiale, per difendere dallo sfruttamento economico e dalla tirannia dei sistemi totalitari, ha posto la dignità della persona al centro dei suoi messaggi sociali dopo la Seconda Guerra Mondiale, insistendo sulla destinazione universale dei beni materiali, su un ordine sociale senza oppressione e fondato sullo spirito di collaborazione e di solidarietà. Ha poi ribadito costantemente che la persona e la società non hanno bisogno soltanto di questi beni, ma anche dei valori spirituali e religiosi. Inoltre, rendendosi conto sempre meglio che troppi uomini vivono non nel benessere del mondo occidentale, ma nella miseria dei paesi in via di sviluppo, e subiscono una condizione che è ancora quella del giogo quasi servile, essa ha sentito e sente l'obbligo di denunciare tale realtà con tutta chiarezza e franchezza, benché sappia che questo suo grido non sarà sempre accolto favorevolmente da tutti. Fin qui la citazione di Giovanni Paolo II nell'ultima enciclica. Egli dice dunque che questo grido e questa attenzione alla qualità della vita intesa come dignità umana non è sempre facilmente accolta da tutti. Infatti, anche se ci si accorda verbalmente su questi temi e su questi vocaboli, come qualità della vita o dignità della persona umana, occorre poi guardare a fondo che cosa si intenda di fatto nella pratica con questi nomi.